Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Bentornati a Ethno Chic, buona serata per questo mercoledì e abbiamo un ospite, abbiamo Ghassid Mohammed che insegna arabo all'Università di Bologna di Macerata ed è qui a presentarci non solo la parte musicale, insomma farci un po' una retrospettiva sulle musiche del secolo che ci ha appena lasciato e fino ad oggi, insomma, del suo paese, ma anche presentarsi questo volume di poesie, La vita non è una fossa comune, edito dall'Arcolaio. Benvenuto, Ghassid. Grazie mille, Vladimir. Sono molto contento di essere insieme a voi e di rivolgermi tramite la vostra fantastica radio al pubblico, ai vostri ascoltatori. Sì, e noi siamo abituati, insomma, a ospitare, insomma, ospiti che ci portano, insomma, un po', come dire, testimonianze musicali e non solo qui in radio. Parlaci un po' di questo libro. Dunque, il libro sembra avere un titolo abbastanza macabro, La vita non è una fossa comune. Invece, in realtà, non è assolutamente così, perché è la negazione. La vita non è una fossa comune, cioè noi siamo esseri umani, ognuno ha una sua identità, indipendenza e quindi, cioè, non siamo una massa tutta una in questo luogo che sarebbe la Terra. È un libro che ho scritto in diversi anni, queste poesie, racconta un po' delle mie esperienze sia nel paese natio, cioè nel mio paese, l'Iraq, sia qui in Italia, ed è diviso in quattro sezioni, diciamo, più o meno. Non sono esattamente sezioni, ma sono separate da piccoli testi, ecco, messi in corsivo. La prima sezione è dedicata diciamo, racconta dell'Iraq, parla del mio paese, di quello che è successo, sono delle poesie abbastanza forti e tristi, ecco, poi magari ne ascoltiamo qualcuna. L'altra sezione parla appunto un po' della migrazione, dell'arrivo in Italia, di esperienze vissute qui e cose di questo genere. La terza sezione è un po' generica, diciamo, la terza e la quarta sono delle riflessioni personali mie, insomma, delle poesie umane, interiori, ecco. Edito dall'Arcolaio, è uscito pochissimo tempo fa. Ecco. E in qualche modo hai ripercorso un po', insomma, un po' la tua vita, insomma, dal tuo paese fino a oggi, insomma, in qualche modo. Infatti, c'è una specie, sì, diciamo che è quasi un po' percorre il mio, esatto, anche in qualche modo, sì, si potrebbe anche notare questo passaggio la mia partenza, insomma, dall'Iraq, il mio vissuto in Iraq, poi passando qui in Italia e anche forse i cambiamenti interni, interiori, insomma. Beh, certo. Sì, che tutti questi passaggi hanno portato. E vedo che, insomma, Ghassid ci farà sentire alcuni esempi proprio anche di musica irachena, giusto, sostanzialmente? Sì, giustissimo. Allora, sì, abbiamo fatto una selezione, diciamo, un po' abbastanza cronologica, più o meno, non esattamente, per dare uno sguardo veloce alla musica irachena, alla canzone irachena, il suo sviluppo, eccetera. E sono 5, 6, 7 canzoni. La prima è è una scelta abbastanza anche significativa, insomma, è una cantante irachena ebrea, cioè irachena ebrea, mm-hmm. Una delle più famose in Iraq, si chiama Selima Morad, e inizia, diciamo, questa, lei intorno agli anni 20, 30, inizia 40, insomma, la sua attività di musica, di cantante. Possiamo ascoltare una sua canzone molto, molto amata, ecco, dagli iracheni. Thank you. E dicevi, questa cantante degli anni, insomma, a cavallo, diciamo, tra la della Seconda Guerra Mondiale, morta negli anni 60, è stata una cantante talmente importante per l'Iraq che addirittura gli è stato conferito un titolo onorifico, no? Esatto, sì. Pasha, Pasha si dice in italiano, no? Che è un termine turco. Basha, Selima Murad Basha, dal primo ministro d'allora nel regno iracheno, perché era tanto amata da lui ma da tutto il popolo, una cantante molto che ha arricchito la musica irachena, e le sue canzoni tuttora vengono no, si fa cover, vengono riprodotte, riprodotte da cantanti giovani, eccetera. E niente, è una canzone, diciamo, fa parte del nostro essere, ecco. La musica è la imbeviamo noi, più o meno, è una cosa, ogni diciamo, nel popolo, ogni paese, ogni cultura ha la sua musica che quando la ascolti, magari ci passi dei mesi, non ascolti una canzone, poi d'improvviso la trovi davanti, o insomma, magari oggigiorno su Facebook la trovi d'improvviso e l'ascolti e ti si apre tutto un mondo sì, poi è interessante collegato. Proprio questa cosa che andando più, sempre più verso Oriente si trova proprio questa cosa della coscienza di far parte di un patrimonio storico musicale. Per esempio anche in Grecia, in Turchia c'è questa cosa, insomma, i vecchi cantanti non è vissuta come una cosa tipo da noi di roba delle nonne, ma c'è proprio il discorso della continuità di questo patrimonio musicale, quindi insomma una cosa molto interessante che da noi si è persa tantissimo, insomma, da noi una canzone passato un anno, l'anno dopo, insomma, c'è molto un discorso più di consumo che non di patrimonio culturale della musica. Beh, può essere, sì. Io anche personalmente, anche in italiano, vado a cercare un po' la musica classica, non lo so, a me piace. Però sì, dalle mie parti queste non sono considerate affatto, anzi anche i giovani oggi quando ascoltano queste canzoni ha tutto un altro sapore, tutto un altro discorso, diciamo. Magari ascoltano canzoni che sono dei cantanti di oggi che dilettano, divertono, eccetera. Però questi era un'epoca diversa, c'era un lavoro proprio sulla musica, poi ascolteremo più avanti altre canzoni, sulla parola proprio oggi, c'è, esatto, sul testo proprio, sulla canzone, che è un lavoro serio. Oggi ci sono delle canzoni che veramente leggere, che non hanno anche significato, insomma, c'è solo la musica, si balla. Sì, sì, c'è il discorso del divertimento molto immediato, insomma. Esatto, prima invece c'era questo discorso della parola e del testo che ti parla, ti esprime al posto tuo, diciamo. E da qui il collegamento con la poesia, direi che sarebbe d'obbligo, quasi d'obbligo, leggere una poesia. Ok, allora io così introduciamo anche appunto l'elemento testuale. Ecco, dunque, dalla purtroppo l'Iraq oggi non è l'Iraq di Selima Murad, appunto, di questa cantante, che era un'epoca d'oro, un'epoca molto bella in cui si cerca, c'era, insomma, l'espressione della bellezza e della... oggi l'Iraq vive un momento molto difficile e, come dicevo, in questo libro ci sono delle sezioni e questa è la prima sezione e vorrei leggere questa poesia che però già anticipo ai gentili ascoltatori che è molto triste, molto forte, perché proprio, ecco, esprime il momento, no? Cioè esprime quello che è il momento, che sì, la percezione del momento storico. Esatto, del momento storico in cui passa l'Iraq ora. Pianse molto il mio bambino quando un giorno tornai dal mercato senza un braccio. Piangeva alzando la manina cercando la mia per attaccarsi e uscire insieme. Pensava non volessi portarlo con me. Gli dissi che l'avevo dimenticato al mercato e che l'avrei recuperato senz'altro. E un giorno ritornai con un braccio giallo che dondolava dalla spalla. Il mio bambino si attaccò alle dita dure, le esaminò e rise stranito. Così ricominciammo a uscire insieme. Un giorno ritornai dal mercato col braccio giallo, ma senza il mio bambino. Sua madre pianse molto e mi chiese: «Dov'è mio figlio?» Le dissi: «L'ho dimenticato al mercato». Ecco, questa, diciamo, io ogni volta che la leggo un po'. Beh, certo. È forte, perché c'è il senso della perdita. Non mi piace molto spiegare le poesie, perché si spiegano da sole. Si spiegano, diciamo, da sole. L'impatto lo sente l'ascoltatore. E da questa realtà molto, molto dolorosa del presente, facciamo un passaggio alla musica, che a volte, insomma, riesce a, anche come dire, a riuscire a sostenere un pochino. Appunto, e questo è anche la vita, no? Sono un, esatto. un passaggio doloroso, un passo felice. Questo sì. Allora, passiamo sì al secondo cantante, che si chiama Nadhm al-Ghazali, pure lui di quell'epoca d'oro, diciamo, e paradossalmente non è una coincidenza in realtà, però Nadhm al-Ghazali si è incontrato con Salima Murad, è nata una storia d'amore, si sono sposati, esatto, hanno cantato anche insieme, perché anche seppur venivano da realtà diverse, perché lui era... Nadhm al-Ghazali era povero, proprio povero, viene da un ceto popolare, diciamo. Sono cantanti basso. Di città, comunque, sono cantanti urbani. Sì, sono, erano a Baghdad. Sono di sempre allora. Vissuti a Baghdad. Esatto, avevano, insomma, riempito l'atmosfera di allora di questa musica. Sentiamo quindi. Questa è un'altra delle canzoni che, insomma, fa volare l'immaginazione irachena. عطشان ميه سقيني قد لها يا حلوه رويني عطشان ميه سقيني قالت لي روحي يا مسكيني قالت لي روحي يا مسكيني مينا ما تروي العطشان طالعة من حلوة رويني على طول تفرجيني قلت لها حلوة رويني على طول تفرجيني قالت لي روح يا مسكين قالت لي روح يا مسكين يا طولي نبعت ريحان طالعة من بيت أبوها رايحة بيت الجيران طالعة من بيت أبوها رايحة بيت الجيران قد ما سلم علي يمكن الحلو زعلان عيونك فرجيني قلت لها حلوة رويني على عيونك فرجيني قالت لي روح يا مسكين قالت لي روح يا مسكين عيوني عيوني الغزلان طالعة من بيت أبوها رايحة لبيت الجيران Questo era il Gasari, che mi dicevi appunto che aveva una formazione da autodidatta, appunto ha lavorato come lavorava in un molino, no? Faceva la farina. Esatto. Aveva un talento sia a livello. Si sente. Esatto. Quindi è rimasto a lavorare, ma intanto a studiare, è un autodidatta appunto, a studiare, a prepararsi, a osservare, poi ad un certo punto ha cominciato a scrivere articoli per giornali sui cantanti, sui famosi cantanti dell'epoca arabi, e infine ha scritto anche un libro suo. Ad un certo punto hanno notato il suo talento. Prima lui faceva anche teatro, ha fatto anche teatro perché era molto simpatico, faceva le battute, eccetera. Poi hanno scoperto il suo talento nel canto, esatto, è cominciato a poco a poco e diciamo, cresciuta la sua fama, è diventato uno dei pilastri della musica irachena, ma non solo in realtà, perché la musica irachena ha una presenza molto forte nel mondo arabo. Non ti posso dire il cinema, per esempio, no, non abbiamo un cinema come quello egiziano, per esempio, ma la musica sì, ha una presenza molto forte nel mondo arabo. Sì, anche perché Baghdad è sempre stato un centro culturale fin dalle notti dei tempi. Esatto. Appunto le famose Mille e una Notte sono ambientati proprio, sono racconti ambientati proprio a Baghdad, insomma. Esatto, i corti non dei califi, dei principi, ecco. Dove si cantava, infatti ci sono cantanti e compositori dell'epoca, cioè. Al-Mawsili, eccetera, che erano nella corte dei califi, hanno aggiunto si chiamano maqamat alla musica araba. Questo, niente, passiamo al secondo, diciamo al secondo. Seconda lettura. La seconda lettura, che è la seconda parte del libro che tratta temi un po' sulla migrazione. Io osservo sempre, no? Anzi, faccio sempre anche, facevo ora un po' meno forse, attività di lettura, incontri in cui si tratta il tema della migrazione, delle persone che si perdevano in mare, eccetera, e c'era sempre ogni volta che succedeva qualcosa un impatto che ti faceva pensare, ti faceva fare insomma venire molte idee e si scrive alla fine. Infatti diciamo, ecco, da questo un po' è nata questa poesia, che nella seconda sessione sulla migrazione. Si chiama Noi Spetri. È uscita in qualche rivista online. Appesi al cilio della vita, noi spetri, figliastri dell'umanità agiata, negati e abbandonati, la nostra dimora è la vostra ombra. Siamo le statuine che sorreggono il vostro candelabro, la cornice che regge il vostro specchio, il chiodo che sostiene le vostre foto incorniciate. Siamo la vostra scarpiera, il vostro attaccapanni, le vostre sedie. Siamo tutto ciò che buttate nello scantinato sotterraneo o nel cassonetto dell'immondizia. Appesi al ciglio della vita, dalla morte alla morte fuggiamo e in un batter di ciglio ci ingoia l'abisso. Siamo il filo rotto della vita, siamo i brutti sogni che ogni tanto disturbano i vostri sogni. Siamo il peso che infastidisce le vostre coscienze. Siamo l'immagine che non gradite sui vostri giornali e nelle vostre TV. Allora voltate il viso verso la vostra gatta che miagola, la accarezzate con tutto l'amore che avete, dicendo in cuor vostro: domani ci sarà un bel sole, e chiudete gli occhi. E anche questa poesia, mi viene a dire canzone, perché alla fine comunque c'è anche dalle tue poesie che si viene fuori questo rapporto con la musica, e perché proprio si sente, no? Si sente qualcosa che si muove, anche perché insomma le parole arrivano, e anche questa poesia, diceva, non ha bisogno poi di tante spiegazioni. No, in effetti, cioè, la poesia descrive, direi, molto, molto bene quello che è poi la realtà, insomma, della migrazione, che da molti poi è negato, insomma, e tutto quello che succede di drammatico, ma anche di portato. Le migrazioni portano le loro culture, anche chi va a lavorare spesso sostiene appunto l'economia dei paesi, come è stato per i nostri nonni che sono andati negli Stati Uniti, per esempio, no? E adesso gli Stati Uniti, praticamente, insomma, gli americani, quelli dell'origine, chi sono? Quando è un paese dove, insomma, tutti, e anche i personaggi più conosciuti, da Madonna, Obama, insomma, sono tutti discendenti di persone che o per cercare lavoro o perché deportati come schiavi si sono recati negli Stati Uniti, insomma, quelli che, esatto, sono oggi. No, ma Stati è Uniti. La realtà del mondo, insomma, della vita. Ma se torniamo un secolo, sì, dietro, ma se torniamo poi ancora più indietro, ancora quando c'erano le migrazioni dei popoli indoeuropei che sono arrivati, sì, ma l'uomo non è stato mai fermo in un posto, esatto, in un luogo, eccetera. La migrazione era sempre legata all'avventura, alla scoperta, scoperta, alla bellezza, l'esplorazione. Ora sta prendendo una connotazione negativa, diciamo, per chi la vede negativa, perché c'è un lavoro sistematico su questo, su, certo, questo tema. Cioè, in realtà c'è da dire molto, ma forse si può affrontare in un momento, diciamo, in un altro momento. E adesso invece c'è questo cantante che ce lo presenti, Gassid? Sì, dunque si chiama Fadl Awad, anche lui è un cantante iracheno della musica classica, questa è più o meno degli anni 60, ecco, siamo arrivati a questo periodo più o meno. È una delle canzoni pure molto belle e legate alle memorie degli iracheni, ecco. Thank you. Yeah. صدري الله بدية الحب انكتاب مشتاق صدري الله بدية الحب انكتاب يا حاضر بقلبي الوادي وعن عيني غايب يا حاضر بقلبي الوادي وعن عيني غايب يا عيني عن عيني غايب عن عيني غايب يا عيني عن عيني E siamo sempre su Etno Chic, Radio Città del Capo, 94.7, 96, 2.50. Siamo qui con Khasid Mohammed. Dunque sì, siamo arrivati alla terza sessione che è un po' riflessiva. La terza e la quarta sono riflessive in cui hanno anche temi personali o anche d'amore o... Certo. Questo misto di poesia. Questa poesia è un testo che è toccante, un po' toccante perché parla di una nostra realtà. Dicevo prima che le mie poesie sono un po' tristi, ma più che altro sono reali, sono la verità. Quella che sento o che sentiamo tutti, che cerchiamo a volte anche di ignorare, giustamente di ignorare certe cose o chiudere occhio, eccetera. Ma come dicevo, io non mi piace spiegare le mie poesie o mettermi a raccontare, leggo. E quindi lasciamo questo, spazio alla lettura. Esatto, questa poesia che ha... Sì. Ma un titolo non è, non ha un titolo. Esatto, certe poesie non hanno certo. alcune hanno titolo nel libro, altre no. In un giorno qualsiasi, diciamo, così inizia anche. In un giorno qualsiasi ti scopri fragile. Sì, era una cosa ben nascosta nel profondo del nostro essere. Ma è la vera essenza di quell'essere. Voglio dire, la nostra umana realtà è che siamo fragili, senza bisogno di scoprirlo. Ci può infastidire una zanzara, può farci del male, può anche ucciderci. Ci ferisce una parola, pur invisibile e impalpabile, ci fa sanguinare i sentimenti. Potresti trovare mille esempi, non c'è bisogno che continui. Siamo fragili, dunque, ma cerchiamo di camuffare questa gracilità con le nostre superbie, i nostri gesti, con sogni, speranze, lavori e pensieri. Molti sono gli strati che nascondono il nostro essere fragili. Cosa della vita? Insomma, lo capisci. Ma un giorno qualsiasi spariscono queste cose. Per un motivo o per un altro, riscopriamo nuda quell'assenza, quella fragilità così dolce, e con essa scopriamo gli inganni della vita e anche le nostre falsità lungo la vita. Allora torniamo alla nostra umana realtà, dolcemente fragili e vulnerabili, come se non ci fosse nessuna corteccia che coprisse i nostri sentimenti, come se fossero esposti e prendessero il posto della pelle. Allora chiudiamo gli occhi docilmente, una foglia che ondeggia nel vento, traccia il suo cammino invisibile, precipita in cerca d'una culla. Questa. E come abbiamo fatto precedentemente, torniamo quindi alla musica. Torniamo ad un'altra cantante irachena. Pure lei a cavallo tra gli anni 40, 50, 60, nel culmine, in realtà è morta nel 64, nel culmine del suo successo e della sua fame. Si chiama Zuhur Hsien, del centro Iraq, a Centrale, diciamo, ecco. Anche lei molto amata, molto ascoltata. E questa una delle sue canzoni famose. اشتكي من الهوى جيت لاهل الهوى اشتكي من الهوى وانا عدكم دخيل من عذاب الخليل وانا عدكم دخيل من عذاب الخليل Come on. Ed eccoci di nuovo a Ethno Chic. Abbiamo chiesto a Rassid Mohammed di leggerci un'ultima poesia, che dicevi di atmosfera un po' bolognese questa. Beh sì, è ambientata a Bologna, assolutamente. No, la città di Bologna è molto presente in questo libro. Da quanti anni che dicevi che sei a Bologna? Dal 2010? Dal 2010, esatto, inizio 2010. E questa appunto è una poesia che è nata da uno scherzo ed è molto cara questa poesia, perché è bella, cioè, non so, sì. Divertente, così. Sì. E anche se paradossalmente si chiama La morte del poeta, ma non ha non ha un risvolto così questo. Tragico. Esatto. La morte del poeta. Scalzi dalla fatica dei sentieri bolognesi, ebri di birra e di brezza, sulle colline dove le luci confinano con le stelle, sotto i nostri occhi giace Bologna, un'oasi di bellezza e splendore. Tu tendi la tua faccia alla carezza della sera, tu, donna che non sa addossarsi i suoi anni, fanciulla che non può celare i suoi dolci vizi. Nei tuoi occhi color jardin giace il mistero di un destino ignoto. La morte del poeta, ripetevi e ridevi con la dolcezza di un sorso di birra sulle tue labbra color corallo, alla penombra di San Michele in bosco, dove pregavano di dolore gli angeli malati. Scalza sorridevi sorseggiando la buona birra dei frati, maledetti dicevi e ridevi, quanto ridevi, viaggiatrice senza radici, fiore dell'aria, la tua dimora è il tempo, il tuo miglior luogo. Ma verrà l'ombra nera e ti troverà sorridente, come l'ispirazione di una poesia si rivela su di te, ti coglierà come oleandro maggiolino, e si spegneranno tutti i jardins, ma i tuoi occhi profondi, tanto profondi, in cui rincorro smarrito uccelli di luce e farfalle gialle, mai l'ombra nera li prenderà da me, cocciuto come sono. E mentre seduto alla scrivania, immerso nei libri, tu, oleandro di giorni lontani, come una faccia senza deciderlo, che si presenta nei nostri sogni, così ti affacci sui miei pensieri, fresca e profumata come un prato sul quale si è appena sciolta la neve. E ogni volta abbandoni la mia stanza, lasci il profumo di un pensiero scavare nelle pareti gracili del desiderio. Mai un sapore più forte di un desiderio mancato. La morte del poeta, pensavo, quante morti moriamo vivendo. Non era mai morto prima chi stabilì che la morte è quella. Poi parti portando frammenti di me, li semini nel tempio del tempo e forse un giorno ne fioreranno oleandri d'amore. Ecco, con questa... E con questa ci salutiamo, ti ringraziamo moltissimo, Rassid Mohammed. Grazie mille, grazie a Radio Città del Capo. Chiudiamo con ancora un brano musicale, giusto? Sempre dall'Iraq. Esatto. Questo si chiama Hsien Na'ma, è ancora vivente, ma è la sua, diciamo, la sua musica è degli anni 70, le canzoni più belle, più anni conosciute. 70, 80, esatto, famose. Quindi abbiamo scelto questa, che è abbastanza dolce come canzone. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao. Thank you. شاتي للعوديين خضر يا ويلي لا موجود لا ينشرى وينبايع لا منا لا منا فريد عود يا شاتي للعوديين خضر يا ويلي لا موجود لا ينشرى يا دنيا كبر الوكيل حمل عشيد نورود يا دنيا كبر الوكيل حمل عشيد نورود يا الشاتي للعودين خضر فريد عود يا الشاتي للعودين خضر فريد عود البقايا الشوق الشوق الشوق وكلمة هلا ومرحبا بس الحبيب تلوق تلوق تلوق سير علينا الهوى فالبقايا الشوق الشوق الشوق وكلمة هلا ومرحبا بس الحبيب تلوق تلوق تلوق يا طعام ذاك الأنس الشمس يا طعام ذاك الأمس لا لو يا خيط الشمس يا دنيا كور الوكيل حمل عشيق نورودي يا دنيا كور الوكيل حمل عشيق نورودي يا الشاتي للعود